GR Europa. Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione da Laura Bettini. In primo piano anche oggi c'è la plenaria del Parlamento Europeo che poco fa ha approvato a larga maggioranza, 579 sì, 58 no, 60 astenuti, la revisione del terzo regolamento sulle agenzie di rating. Relatore Leonardo Domenici. Nuova stretta per le agenzie di rating, obiettivo evitare che le loro valutazioni facciano cadere malamente i mercati. L'Europarlamento ha votato a larga maggioranza le nuove regole, ora manca solo il via libera formale dei governi e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questione di 2-3 mesi si parte. Le novità sono parecchie importanti, anche se si è persa per strada un po' dell'ambizione originaria. Per quanto concerne la concorrenza, ricordiamoci che Standard & Poor's, Moody's e Fitch occupano il 95% del mercato. Intanto il debito sovrano, le agenzie potranno valutarlo non più di 3 volte l'anno, a meno che non ci sia una richiesta dello Stato interessato, pubblicazione non più a freddo, ma secondo un calendario annuale noto in anticipo. Gli emittenti, siano stati o imprese, avranno più tempo, fino a un giorno lavorativo, per studiare i rating prima della loro pubblicazione, che avverrà comunque di venerdì e a mercati chiusi. Non solo, le valutazioni ai governi non potranno prevedere raccomandazioni esplicite di politica economica. Poi paletti sui rating alla finanza strutturata, cioè le ricartolarizzazioni. Ogni 4 anni va cambiata agenzia di rating, è un settore limitato, comunque un nuovo meccanismo viene pure avviato. Infine i conflitti di interesse, i paletti sugli incroci azionari tra agenzie di rating, tra queste e le società emittenti, e il diritto a ricorrere al giudice purché sulla base di argomenti giustificati. Antonio Poglio Salimbrini da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Strasburgo. E se ieri al Parlamento era stata la giornata del saluto alla presidenza cipriota, oggi è stata quella del benvenuto al semestre di presidenza irlandese. L'Irlanda uscirà dal programma di aiuti, ha annunciato orgoglioso il premier Enda Kenny. La nostra economia è ancora fragile, ma ha ripreso a crescere. Sentiamolo. We have honored all, and I mean all, of our EU IMF commitments. Abbiamo adempiuto a tutte le richieste che ci sono state fatte, dice in questo passaggio Kenny, che poi è passato alle priorità del semestre. Non ci risparmieremo per trovare rapidamente un accordo tra i governi per il bilancio pluriennale 2014-2020 della UE, ha detto. Sul bilancio ha incalzato il presidente della Commissione Barroso, eccolo. Governments should not forget that while their agreement. I governi la smettano con la retorica, dice tra l'altro Barroso, devono sostenere le misure proposte dalla Commissione europea, trovare un accordo possibilmente inizio febbraio, perché il bilancio è lo strumento per la crescita e la occupazione. E intanto, a conferma del periodo difficile nel continente, sono arrivati i dati del 2012 sulle nuove immatricolazioni di auto in Europa, che hanno toccato il livello più basso dal 1995. Il mercato nei 27 paesi della Unione ha segnato un meno 8,2%, maggior ribasso dal 1993. Lo comunica l'ACEA, l'associazione che riunisce i costruttori presenti in Europa. Dicembre è stato il mese peggiore, con una flessione del 16,3%. Nell'Europa 27. Nella top 10 dei costruttori, settimo posto per Fiat, un soffio da BMW col 6,4% del mercato. È tutto per questa edizione, l'appuntamento è per domani alla stessa ora. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.